Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Romagna con Roberto Gavelli. Da pochissimo precipito a una velocità che può solo aumentare. Sono ad alcune decine di metri dall'asfalto. Vivo la strana contraddizione di un futuro fatto di pochi istanti, ma dentro al quale ci sono tutti gli anni della mia vita. Non so come sia possibile, eppure ho ancora del tempo a disposizione. Queste le parole con le quali comincia Promontorio 7, il primo romanzo di Roberto Gavelli, che nel suo precipitare e vedere tutti gli anni della sua vita, vede anche la sua Romagna. E in questo Amarcord, fatto di paradisi perduti e di luoghi dell'anima, come li definirà lui, ha deciso di portarci con sé. Il toponimo Romagna deriva dal tardo latino Romania e risale al VI secolo d.C., quando l'Italia fu divisa in Longobardica e Romana, cioè soggetta ai Longobardi e all'Impero Romano d'Oriente. Romania assunse quindi il significato generico di mondo romano, in opposizione a quello barbarico longobardo. Con la creazione dell'esarcato d'Italia, con capitale Ravenna, il termine assunse poi un'accezione geograficamente determinata, indicando la parte della penisola rimasta legata all'Impero Romano. Oggi la Romagna è compresa tra il fiume Sillaro ad ovest, il Reno a nord, l'Appennino tosco-romagnolo a sud-ovest, fino al Monte Maggiore nell'Alpe della Luna. Da qui il confine si estende fino a Fiorenzuola di Focara, tra Gabicce Mare e Pesaro. La Romagna comprende le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e parte della provincia di Bologna, Imola e zone limitrofe, e della provincia di Pesaro e Urbino. Si considerano facenti parte del territorio romagnolo anche Badiete d'Alda, una parte del comune di Sestino, in provincia di Arezzo, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi, provincia di Firenze. Una parte di questo vasto territorio è costituita dalla zona del Delta. Allora, la Romagna che cos'è? Innanzitutto è un grande luogo comune, perché se chiedi alla gente di fuori ti dirà quelle 5-6 cose: il cibo, la simpatia, la cordialità, l'accoglienza, il mare che è così però è molto organizzato. Quindi questi sono i temi principali. Per me invece la Romagna è un luogo dell'anima, è anche un paradiso perduto, perché sono stato 14 anni in Lombardia e poi sono ritornato. Quindi quasi precipitando poi rivedi tutto il passato e aggiungi delle cose nuove. Ci sono come dei paradisi perduti che tu riscopri, sono anche luoghi dell'anima ovviamente, non sono solo legati a un posto. E poi c'è anche la riscoperta, cioè vedi cose nuove o le vedi con un occhio diverso. Per esempio il mare io lo conoscevo nelle grandi zone Cesenatico, Rimini, Riccione, poi quello che c'era a nord era quasi indifferente, cioè non lo conoscevo proprio. Questa è stata una delle riscoperte. E la mia città, Forlì, è in una zona di mezzo, nel senso che è città di 110.000-120.000 abitanti, è in pianura ma proprio ai piedi delle colline. Ai piedi delle colline e a 30 km dal mare. Non è proprio pianura padana, non è ancora collina e non arriva la salsedine, ma la puoi trovare quando vuoi. Quindi questa zona di mezzo ti porta magari a non avere cose eclatanti dentro di sé, però tutto quello che vuoi lo raggiungi con una certa facilità. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare. Romagna, luogo comune, non ci sono dubbi. Il mare è così, ma gli stabilimenti sono organizzati. I romagnoli sono tutti simpatici e poi come si mangia? Sì, l'abbiamo detto tutti almeno una volta. Ma per Roberto, la Romagna è anche paradiso perduto proprio perché per tanti anni è vissuto in Lombardia e, come ogni paradiso perduto, ha il potere di preservarsi, pur cambiando, come dice lui in Promontorio 7. Esistono paradisi perduti, racchiusi in zone nascoste, che una volta raggiunti di nuovo non coincidono col ricordo che ne conserviamo. Così ci sfidano a rinnovare le sensazioni che abbiamo provato la prima volta, perché, come tutto cambia, anche loro sono cambiati. Non sono diventati né migliori né peggiori, ma diversi. Questo è il modo con cui i paradisi perduti tendono a preservarsi. Non possono evitare nuove intrusioni, così cercano di mascherare la loro reale natura, proiettando altre immagini a difesa della propria conservazione. E a proposito di conservazione e di occhi diversi coi quali guardare i propri paradisi perduti, eccoci arrivati nella sua città, Forlì. Forlì, devo dire che mi dà questa sensazione che ci sia ancora il welfare, cioè che resista dove in altri luoghi è in crisi, cioè la crisi c'è dappertutto. Forse qua c'è qualcosa di più, di persistente, tipo gli ospedali che funzionano ancora bene. Questa è sempre la sensazione, non voglio gettare il dubbio sul fatto che questo sia meglio di altri posti, però anche, per esempio, è caduto 1,5 metri di neve e abbiamo resistito bene. Gli asili, tutto quel welfare, quella solidarietà sembrano reggere. Ovviamente gli assalti sono poderosi, la crisi, i tagli dei costi ci sono. Ho notato a Forlì tantissimi parchi urbani, alcuni li ho scoperti recentemente, e sono tutte zone verdi con parchi giochi eccetera eccetera per bambini strappati anche al degrado, all'abbandono. Quindi c'è sempre di positivo, forse ancora un interesse per il cittadino come in tanti altri posti, però qui sembra ancora resistere meglio. E da Forlì poi puoi raggiungere tanti luoghi. Memore di una chiacchierata con un altro romagnolo doc tanti anni fa, sfido il mio accompagnatore a definire geograficamente la Romagna. No, la Romagna è Forlì e Ravenna, quelle province, anche se poi è difficile distinguere perché il mare prosegue fino a Venezia, no? Passa la grande zona turistica alle propaggini del Delta del Po. Quindi il Delta del Po inizia con le saline di Cervia, quindi siamo in pieno divertimentificio romagnolo. Poi c'è Milano Marittima, che è molto verde, poi iniziano i lidi sudravennati e di lì in avanti una serie di zone protette molto belle con dune, lagune, zone protette alle spalle in cui magari stretto dalla Romea, che è una strada molto, molto problematica, ma c'è quella distanza giusta in cui trovi ancora il deserto, trovi la natura, magari se ci porti qualcuno lì bendato lo svendi e gli dice questa qui è la Maremma e lui ci crede, oppure questo è il Circeo, oppure questa è la Camargue. Quindi anche lì ci sono tanti posti riscoperti, difficile anche da elencarli tutti. Con il simbolo della pace te li ho comprati io d'estate al mercatino dei freak. Non mi hai nemmeno detto grazie, ma ti sei fermata lì a ballare. Dimmi dell'India, hai più pensato a quel progetto di esportare la piadina romagnola? Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Romagna con Roberto Gavelli. Oggi si parla in romagnolo a Compagni di viaggio ed è subito simpatia, perché, come dice il mio accompagnatore Roberto Gavelli, la Romagna è, fra le varie cose, un luogo comune fatto di buon cibo, simpatia naturalmente, e mare non bello ma organizzato. Eppure, fuori dai cliché, soprattutto parlando di mare, si possono trovare delle perle. Per esempio c'è la Bassona. La Bassona qualche anno fa era una delle 10 spiagge più migliori d'Italia secondo Legambiente. Sono 2 chilometri di dune È stata a lungo tempo una famosa spiaggia naturista, recentemente è stata chiusa, quindi ci si può arrivare solo a piedi e non ci si può fermare, quindi è stato l'abbandono della presenza umana, un peccato perché comunque era un luogo libero, potevano andare anche quelli vestiti normalmente, non solo i naturisti, e quindi era un posto molto bello, splendido, in cui riconosci di essere in Romagna perché vedi le stesse piattaforme petrolifere che vedi anche da zone più popolate, se no sembra veramente un altro mondo. Poi andando avanti c'è la foce del Reno, che è protetta da un'oasi naturalistica e da un poligono di tiro militare. Anche lì, se vuoi visitare quelle zone, devi andarci a piedi. E anche lì duna, lagune, pinete, da Lido di Spina per esempio fino alla foce Reno devi guardare un canale e lì hai 3 km di deserto, di pace e di silenzio. Solo pochi avventurosi arrivano lì e ci sarà una persona ogni chilometro. Sul lato invece più sud, anche lì puoi andare a piedi fino a Punta Marina, anche lì zone protette, dune, rifugio per gli uccelli, eccetera eccetera. Poi dopo si va nei Lidi Ferraresi, poi dopo c'è il Po, poi c'è Albarella, poi c'è Chioggia, poi c'è Venezia, c'è una continuità se vogliamo. Il delta del Po è una delle zone, forse è la zona umida più bella d'Europa, noi tendiamo a sottovalutare molto queste cose, ci sembra quasi tutto scontato. Dune, lagune, pinete. Certamente non si pensa subito alla Romagna se qualcuno ci dice queste tre parole, ma come ci sta facendo vedere Gavelli, è un errore. Errore dovuto alla tendenza di sottovalutare quanto ci sta sempre sotto agli occhi. In senso generale la Romagna è anche sottovalutazione. Faccio un esempio. Vicino a Forlì, nei colli sopra Castrocaro, famosa per il Festival Canoro, ho scoperto che fanno un olio extravergine di primissima qualità. E questa cosa, però chi l'ha fatto è andato contro il parere di chi diceva ma non funzionerà mai, perché abbiamo delle colline che forse non hanno nulla da invidiare a quelle toscane, però le sottovalutiamo, non pensiamo che abbiano quelle potenzialità, forse perché c'è il polo d'attrazione turistico che quindi attira tutto. Però ecco, c'è una sottovalutazione della nostra fascia collinare, che invece è bellissima, uno dice anche per fortuna, cioè magari la puoi vivere anche in maniera più rilassata, con meno gente, sei più padrone di quello che vedi, ecco, perché nel deserto, nel silenzio, nella mancanza di gente, allora hai un rapporto più privilegiato. Però effettivamente c'è sottovalutazione. Altro esempio, il Sangiovese, che è un vino DOC, è un vitigno tra i più diffusi in Italia, però magari per molti di noi è quel bicchiere di rosso in osteria, cioè lo vediamo come un vino da pasto e magari non è così, ecco. Vino, vino qualunque, vino. Per me che son vetto di mondo, tutto mi appare lontano. Gli uomini sono così piccoli, voglio vederli più da vicino. Vicino, venire più vicino. Siamo arrivati al Sangiovese. Il suo nome, secondo una delle tante leggende, sembra provenga dai frati cappuccini del convento di Sant'Angelo di Romagna, che tra le altre cose coltivavano la vite e producevano lo splendido vino rosso. Un giorno una persona illustre passò da loro e beve quel nettare meraviglioso. Quando chiese il nome di tale meraviglia, nessuno seppe rispondere. Era semplicemente vino. Ma a una tale prelibatezza va dato un nome. Così uno dei frati, con prontezza di spirito, disse: «È sangue di Giove». Da qui Sangiovese. Si dice contenga il carattere dei romagnoli, esuberante, schietto, ospitale e nello stesso tempo ruvido all'esterno, ma sincero all'interno. E dopo questa parentesi etimo-enologica, continuiamo il viaggio con Roberto Cavelli, che sta cercando in ogni modo di farmi vedere una Romagna lontana dai luoghi comuni. Il mare vive anche questa contraddizione. Siamo un po' vittime del mare brutto. Non è poi così brutto se abbiamo comunque delle zone naturali splendide. E anche le zone turistiche hanno la loro bellezza. Ne sono certa. Abbiamo sdoganato anche il mare, almeno quello delle vacanze estive fatto di nonne coi nipotini che vanno sulla riviera romagnola perché è attrezzata, e di ragazzi accecati dalle discoteche e dal divertimentificio, come l'ha definito Roberto. Ma anche il mare fuori stagione sembra non essere male. Partendo da Forlì, quindi la necessità mia di camminare un'ora al giorno, vado spesso al mare anche fuori stagione. E quindi in questo fuori stagione vedi già da marzo, vado tipo a Cervia, a Pinarella di Cervia, cammino fino a Cesenatico se ce la faccio e poi torno indietro. Vedi già da marzo che iniziano i lavori di ristrutturazione dei vari stabilimenti balneari e vedi che la stagione inizia a caricarsi molto presto, anche perché c'è Pasqua, quindi la preparazione a Pasqua. E che altro dire? Vedi che ogni anno aggiungono qualcosa. Ai miei tempi, se c'era il ping pong, già facevi salti di gioia. Invece adesso c'è il solarium, il beach volley, il campo da basket, il parco giochi per i bimbi, il wifi, la TV al plasma, Sky, eccetera, eccetera. Quindi, e sembra che ogni anno aggiungano qualcosa. Anche lì c'è ancora investimento, c'è ancora attenzione per il turismo, forse per non perdere il primato dell'accoglienza e della vivibilità, visto che magari si sa che il mare non è un granché, anche se è meglio di quel che si dice, come dico io. E quindi i fanatici della camminata e dell'abbronzatura, da febbraio, i primi caldi, fino a ottobre, hanno quel tipo di frequentazione. Il mare lo puoi vivere fuori stagione, non solo il mare d'inverno cantato da Ruggeri, ma anche in orari non consoni, puoi andare magari la sera, tarda sera, oppure nella pausa di mezzogiorno, al sabato e la domenica, fuori stagione. Ed è sempre bello. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Romagna con Roberto Gavelli. Luoghi dell'anima e paradisi perduti, ma anche luoghi comuni da sfatare e bellezze naturali da riscoprire. Questa è la Romagna nelle parole di Roberto Gavelli. Tutto è cominciato come comincia il suo libro, Promontorio 7, precipitando per rivedere tutta la sua vita dopo un'assenza durata anni. Ed è proprio stata questa assenza a fargli rivalutare casa sua. Il mare, anche quello d'inverno, ha il suo fascino, in barba a quanto si dice dell'Adriatico. Le colline non hanno nulla da invidiare a quelle toscane, pure qui si fa dell'ottimo olio. E poi vogliamo parlare del vino, del mitico sangiovese? Ma la Romagna è anche sottovalutazione, ha spiegato il mio accompagnatore. E noi siamo qui per riviverla insieme a lui con altri occhi. Per dire, anche Cesenatico è un posto che non delude mai. C'è un bellissimo porto canale, dicono, progettato su disegno di Leonardo da Vinci, con le navi del Museo della Marineria nel mezzo, che poi in dicembre diventano un presepe molto suggestivo con le statue messe nelle barche, statue grandezza naturale. Cesenatico, non per motivi eclatanti, ma è sempre bella in qualsiasi stagione. Forse perché io sono innamorato del posto, non lo so. E proprio parlando di innamoramento, ora sta per arrivare il ricordo di un amore. E quindi stavo dicendo che poi si preparano i grandi riti dell'estate. I grandi riti dell'estate qui sono al massimo, perché dove c'è più folla, dove c'è più affollamento, è la Romagna. Mi ricordo il primo amore, un Luna Park sul mare, il primo amore corrisposto, perché poi c'è anche il primo amore non corrisposto, a volte le due cose coincidono, a volte il primo amore è corrisposto, a volte devi aspettare un po'. Serata magica sul mare con un Luna Park, forse era Cesenatico, forse Cervia, non ricordo, con il romanticismo al massimo, come sfondo i grandi riti dell'estate. Ora, è confortante sapere che quei riti ci saranno sempre, si risvegliano in ogni stagione. Magari quest'anno non ti va bene, sei messo male da un punto di vista sentimentale, l'anno dopo ancora, due anni fa era uguale, poi magari l'amore ritorna e il romanticismo potrebbe scorrere ancora a fiumi e la Riviera Romagnola ti mette a disposizione le sue stanze, allora tutto diventa magico e i paradisi perduti del passato vengono recuperati. Ecco come lo descrive nel suo libro. Il tunnel dell'orrore non era altro che la raffigurazione di quel lato oscuro che prende gli innamorati anche quando sono agli inizi. Perché l'amore, col semplice gesto di nascere, va a risvegliare quelle entità malvagie che provocano la fine stessa dell'amore. L'ultima sera, l'ultima storia, l'ultimo Luna Park. E tu che sogni mentre la giostra va, se avrai mai tempo. Dopo l'amore con la Romagna nato al Luna Park e i riti dell'estate che predispongono il cuore ad ogni nuova stagione, proseguiamo con Roberto. E la gente? La gente di Romagna è sicuramente... Allora, l'essere umano ha i suoi pregi e difetti ovunque. Io credo che i luoghi comuni sulla Romagna siano veri, cioè c'è... Forse la cosa che mi piace di più è la simpatia. Cioè... Il romagnolo è simpatico di natura, poi sicuramente cordiale, ospitale, gioia di vivere, però voglio dire anche altre popolazioni lo sono, quasi tutte, poi si dice che il Ligure sia un po' più chiuso, eccetera, eccetera. Però forse la caratteristica principale è la simpatia, poi è stata scoperta anche dalla comicità televisiva questo, ma comunque... La voglia di ridere, ecco, di ridere anche delle stupidaggini, la sgrigna, che sarebbe il ridere senza controllo, e forse l'amore per la risata, quindi anche a volte con scherzi pesanti, a volte meno, però la cosa più pura, secondo me, è ridere delle stupidaggini. Ti capita anche un episodio stupido alla cassa del supermercato, lo racconti e ridi di quella cosa stupida. Sì, c'è molta simpatia, direi, in Romagna. Sempre, ovviamente, quando parli bene di qualcuno sembra che dici che gli altri sono antipatici, ma in realtà ognuno ha le sue forme di simpatia. Secondo me la forma più alta in Romagna è proprio ridere del nulla. La risata stupida è fine a se stessa, che però fa bene. Che altro c'è da visitare? In provincia di Forlì c'è il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che è una delle foreste più grandi d'Europa. Anche lì sottovalutazione, perché non è poi così conosciuto. Le foreste casentinesi hanno il versante romagnolo e quello toscano in cui c'è altrettanta foresta. Tu inizi ad andare verso l'Appennino, curva dopo curva, vedi tutto il crinale delle montagne coperto a perdita d'occhio di foresta, come non succede in nessun altro luogo. Arrivi in Campigna, che è il centro principale, lì ci sono due alberghi da 40 anni, cioè sono sempre quei due, non hanno costruito altro, quindi anche questo è un bene, oltre alla sottovalutazione è un bene, perché comunque ha consentito alla natura di rimanere integra. tanti anni fa, mi ricordo, la forestale faceva addirittura saltare le case abbandonate dei montanari per impedire il ritorno dell'uomo, perché l'uomo nella natura era considerato, in maniera anche molto estremista, un pericolo. All'interno delle foreste casentinesi c'è la riserva integrale di Sasso Fratino, cioè da tanti anni non c'è l'intervento dell'uomo, è proibito l'ingresso e quindi la natura cresce spontanea come dovrebbe crescere. L'albero che cade rimane lì a marcire, non c'è più nessun intervento dell'uomo. Quindi c'è questa montagna eclatante, non conosciutissima, anche se poi è stata la salvezza. Poi dopo si va nel versante toscano, c'è anche la Verna dove San Francesco ricevette le stimmate, eccetera, eccetera. Quindi è un luogo davvero splendido. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Romagna con Roberto Gavelli. Siamo in Romagna in compagnia di Roberto Gavelli. Abbiamo visto paesaggi straordinari che spesso vengono sottovalutati perché la Romagna è sottovalutazione, come ha detto lui. Però è anche paradiso perduto e luogo dell'anima. Se si sta lontano dai luoghi comuni, si possono scoprire natura e paesi spettacolari. Vediamo che altro ci riserva questa visita. Poi torni un po' indietro, ci sono le colline. Mi piacerebbe citare Bertinoro, che è un luogo vicinissimo a Forlì, arriva a Forlì in Popoli e poi dopo poco si è a Bertinoro. Un luogo forse fortunato per il paesaggio, è un borgo medievale in cima a una collina, c'è una terrazza in cui puoi vedere tutta la Romagna, questa fetta di Romagna che ha una striscia di pianura padana, ha le colline alle spalle e ha il mare, c'è sempre quella striscia azzurra in cui hai i punti di riferimento che sono il grattacielo di Rimini, il grattacielo di Cesenatico, quello di Milano Marittima. Poi giù vedi Forlì in Popoli, vedi Forlì sulla sinistra, poi sullo sfondo Ravenna e sulla destra Cesena. Quindi c'è un terrazzo panoramico anche lì, volendo romanticismo a mille, quando hai la fortuna di vivere momenti romantici, comunque anche bello da vedere. Famoso anche per i vini, per l'Albana, Bertinoro. Luoghi simili ce ne sono tanti, però forse Bertinoro è uno dei più belli. Poi c'è anche Massa vicino, posso citare Massa vicino a Forlì perché è proprio a 2 chilometri forse, neanche, è un posto dove penso avesse la villa anche Giovanotti ai tempi in cui abitava qua. Anche lì c'è nulla di eclatante, ma un bel paesaggio digradante, la pianura, il mare sullo sfondo, la striscia azzurra. Poi ci sono tanti altri luoghi belli, parlando della collina. Per esempio c'è anche Sant'Arcangelo, anche quella scoperta da poco perché non credevo fosse così bella, ci passavo sempre in macchina. Ah, siamo arrivati a Sant'Arcangelo, tra un po' siamo a Rimini, invece ecco che c'è anche lì il borgo medievale molto bello. I paesi da visitare sembrano non finire mai. La Rocca delle Camminate, altro luogo magico. Era la resistenza estiva di Mussolini, quindi c'è il castello e il parco attorno in cima, e anche quello ci puoi arrivare da Meldola, che è una città vicina a Forlì, ci arrivi da varie parti, e anche quello bellissima collina con la bellezza del paesaggio, fatto di vigneti, di piccole macchie di bosco, di campi coltivati. Quindi ecco, parte di una collina che magari dai colli marchigiani passa a quelli che sono sopra Rimini, che hanno una striscia di pianura molto stretta, poi la pianura si allarga, arriva le nostre colline, poi si arriva ai colli bolognesi, eccetera, eccetera. Quindi, se vuoi anche lì dire dove inizia la Romagna, dove finisce l'Emilia, dove iniziano le Marche, è un falso problema. Possiamo dire che dopo Imola non è più Romagna, però alla fine vedi delle piccole trasformazioni. I passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Dove comincia e dove finisce la Romagna è un falso problema, dice Gavelli, ora che siamo alla fine del viaggio. Piccoli cambiamenti nel paesaggio e si percepisce che ci si avvicina ad altre regioni. Cambiamenti che si possono carpire anche ascoltando la parlata della gente. Mi ricordo quando andavo a scuola a Pesaro che il treno tirava su quelli di Forlimpopoli, quelli di Cesena, quelli di Gambettola, quelli di Savignano, quelli di Sant'Arcangelo, quelli di Rimini, quelli di Riccione, e vedevi la parlata che cambiava impercettibilmente fino a diventare la cantilena pesarese. Però già a Cesena si apriva la E, Roberto, e alla fine vedi che poi l'Italia è un digradare di situazioni in cui ognuna fluisce nell'altra. Quindi difficilissimo mettere i paletti. A me piacciono molto i lidi ferraresi, scoperta da poco, ma non è che mi faccio il problema se sono migliori, se siamo in Emilia o se siamo in Romagna. È la variante di cose, anche dell'anima, già viste qualche chilometro più a sud o più a nord. E in questo tuffo nel passato per Roberto, che ci ha portato nella sua Romagna, ci sta bene una domanda sull'olfatto. L'odore della Romagna è salmastro molto leggero sulla costa, invece è leggermente profumato di fieno in collina, ovviamente nella stagione giusta, però lo associo a quello. L'odore delle notti d'estate in campagna, quindi fiori, erba, fieno, poi ovviamente cambiano anche le stagioni, però c'è quell'idea lì. Visto che l'ho stuzzicato, per salutarci Roberto si vuole esibire in una poesia in dialetto romagnolo. Grazie per averci fatto precipitare con te, come in Promontorio 7, rivedendo i tuoi luoghi. Alzò, che un nome a cinquantenne l'ha sempre d'ave al ma pulidi, a me am li lev d'otri volte de, ma le sol quando vague con a man sporchi che a marcorda quando sera burdel. Probabilmente l'ho detta molto male, però lo so, che un uomo di 50 anni ha sempre da avere le mani pulite. Io me le lavo 2-3 volte al giorno, ma è solo quando mi vedo con le mani sporche che mi ricordo di quando ero bambino. Questo è Tonino Guerra, recentemente scomparso, grande poeta, grande sceneggiatore. Ora Roberto Gavelli è in libreria con Promontorio 7, edito da Aretusa. Torno a casa, siamo in tanti sul treno. Occhi stanchi, ma nel cuore sereno.